Thank you. Thank you. Thank you. reason of being out of the country. I'm glad we got here, that I have a couple of people. Yeah. Thank you. you di comandi, il suo battaglione, e il suo battaglione, non è più un migliore stato, era un amico, non lo aveva fatto comandi, non era il loro, non era la mia vita, non era degna della mia vita, non era la mia vita, non era la mia vita, non era la mia vita, non era la mia vita, non era la mia vita, non era la mia vita, non era Grazie.